así. El mar ha consumado. Sono le mie parole. L'amore per te. Non t'ho saputo dare quel che volevi da me. Ogni parola che ci diciamo è stata detta mille volte. È stato già vissuto mille volte. Sassi che il mare ha consumato sono le mie parole. L'amore per te. Ogni parola che ci diciamo è stata detta mille volte. Ogni attimo che noi viviamo è stato già vissuto mille volte. Sassi che il mare ha consumato sono le mie parole d'amore per